mi ricordo che l'inverno nevicava. Il primo ottobre la scuola ricominciava. Di là la voce di mia madre che cantava. Regina della notte che mi ipnotizzava. Ma c'era un vecchio che scriveva sulla strada di strani raggi e di un'onda misteriosa che controllava il cervello di chi l'ascoltava. E su un cartello una scritta che diceva: pentitevi, che la fine del mondo è vicina. Pentitevi come non vi siete mai pentiti prima. Pentitevi che la notte si avvicina ed è così fredda e buia. Pentitevi che l'alba è lontana. Sarà come prima, rilassatevi.